Ho dimenticato di chiamarti ieri. Quindi hai un coxo domani? Fammi sapere che nel mio caso speciale ho registrare l'intera trama. Grazie. Coxo spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes, it's all about you. So you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please, why are you acting so cocky? You can make like your chicks bounce like Dolly, cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, cause you just ain't another girl like me. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, risk, don't worry. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stush. I think you've been smoking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, I suggest you just slush. 昨天我忘了给你打电话，那么你明天要做功课吗？让我知道，在我准备自己的情况下，记录等不及节气放下。 I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen. I'm gonna flush you out my system. Flush. Now I'm pulling the chains. So it's flush out my veins, out the drain. Flush. You're like you, no more sick. You left skid marks, but the scars don't last. Flush. Time to be me again. Flush. Each bubble, meet my friends. Flush. Sorry, love. What was that? All I heard was. I think you're too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stored, just be flush. Each bubble, meet my friends, flush. Sorry love, what was that all I heard? I think you're too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stored, just think you've been smoking way too much poker. I think you're too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit, or is that suggest you just flush? Benvenuti a Coxo Spaziale, questa è la, forse è la 218esima puntata, forse la 217esima, non mi ricordo. Comunque siamo qui con Haru Suzuki, ho pronunciato bene il tuo nome? Esatto, vero mio Suzuki Haru. Ah giusto, è perché si dice prima il cognome e poi il nome in giapponese, ma perché tu sei giapponese? Sì, sono ma mezzo mezzo, sono mezzo sangue, mia nonna è giapponese. Tua nonna giapponese, mezza cinese, mezza giapponese. Metà metà. Metà metà. E tu fai, sei un, cosa fai? La, sei una cosplayer e una performer e anche una, e hai, hai una trasmissione radio, giusto? Però di cinese, una, quindi non capite, penso. No, penso anch'io. Ne abbiamo sentito un pezzettino l'altro giorno, qualche puntata fa, io... Ho registrato un pezzetto e l'ho trasmesso. Lo sapevi? Bravo. Sì, ok. Wow, che serioso così. Sono serioso, eh? Vabbè, ogni tanto, quando, soprattutto quando faccio coxo spaziale, devo essere serissimo. E che cos'è questa trasmissione che tu fai? Il radio mio. Sì. Di solito io canto, ma prima io faccio un streaming di video, quindi... Ma adesso io faccio un streaming di solo radio, perché internet qua non posso fare di video. Prima io faccio streaming di tipo io giocare con videogioco. Ah. Oppure io faccio qualcosa tipo comics fuori. Mm-hmm. Adesso io di solito faccio solo cantare. Canti basta. Mm-hmm. E ma nello streaming di video... Tu eri vestita da cosplayer o no? Mi scusi? Facevi la cosplayer nel video? Quando facevi lo streaming di video? Sì, sì, faccio fantastico. Sempre. Ma adesso che fai solo la radio, ti vesti lo stesso come cosplayer o no? Certo no. Ah, ok. perché era simpatico pensare che, anzi, era simpatico pensare che comunque anche per fare la radio ti vestivi da cosplay. E che cosa racconti oltre a cantare? Perché l'altro giorno ti ho ascoltato per tutta l'ora e hai fatto solo due canzoni. Tutto il resto del tempo parlavi e ridevi, ma io non capisco il cinese, per cui non so di che cosa parlavi. Certo, parliamo la cosa che è nuova, succede su internet. Oppure... Ah, ok. Sì, la cosa sempre nuova, perché voglio sapere anche io. Ah, certo, perché tu non essendo in Cina hai bisogno di saperlo. Mi interessa quella cosa interessante. E che cosa succede di nuovo su internet? Non posso dire, penso. E non si può dire? Ah, non si può dire. Capisci adesso? Adesso capisco, no? Ma anche, non mi sembra che parlate di cose particolarmente importanti, o sì? A noi sempre, perché questi giorni quella lì è una cosa molto importante. Ho capito, però voi parlate di quello che sta cambiando nei costumi della gente in Cina, giusto? Mm-hmm. Ok, interessante. Dopo magari me lo racconti quando spengo il microfono, di che cosa parlate. E dunque, allora ci canti una canzone? Adesso? Sì. Ah, certo, un attimo. Va bene, fai con calma. E tu suoni l'ukulele, giusto? Sì, giusto. Giusto. Però io ho studiato fino adesso solo pochi mesi, quindi non sono perfettamente suono. Ok. Adela si chiama il tuo ukulele. Vuoi che ti tengo sullo spartito? Grazie. Come si chiama questa canzone? Cosa ci canti? Si chiama Departures, è una canzone di giapponese. Giapponese? Mm-hmm. Mm-hmm. Vai, ti ascolto. Okay. Troppo. No, no, va bene. Vuoi che te lo tengo io? Questo veloce è già finita così? Mm-hmm. Ok. Una canzone bassa. Una canzone bassa. Mm-hmm. Come si chiamava? Che cosa raccontava questa canzone? Questa canzone è una love song, una canzone di tipo su amore. Mm-hmm. Departures vuol dire partenze. Mm-hmm. Dice che è la storia di una cartone. Mm-hmm. Perché è un ending canzone di cartone, si chiama Guilty Girl. Ok, non lo conosco. No, io i cartoni non li guardo da un po'. Mm-hmm. È interessante però questa cosa, no? Partire dal video e diventare un programma radio. Mm-hmm. Perché questa radio è una radio online, no? Mm-hmm. Cioè in realtà è un'app. Stavo pensando che in Europa non c'è, nel mondo occidentale, un'app che ti permette di fare la radio? Esiste? Fatta come l'ICI FM? In Europa non capisco. Ok. Bene. Ma di video ci sono tanti, giusto? Come YouTube, sì, come certo. Facebook, ci sono tanti. Mm-hmm. Per fare i video live, anche mm-hmm. Instagram. Mm-hmm. Mm. Ogni tanto... Canti una canzone su Instagram. Certo. Così però, cioè partendo dal cosplay, E arrivando alla radio, dopo dove vai? Dopo è la ricerca, devo pensare adesso. Devi pensare. Cioè, tu da grande cosa vuoi fare? L'artista, la cosplayer è un mestiere, c'è gente che vive facendo il cosplay, eh? Come funziona? In Giappone sì. Sì. I cosplayer certo. Famosi sono pagati sì. Molto, no? Sì, sì, ci sono tanto. Ma okay. In Europa ci sono tanti cosplayer famosi anche. In Spagnola, giusto? Sì. In Spagnola c'è un... No, in Spagna. Ah, Spagna. Spagnola vuol dire Spanish. Ok. C'è un cosplayer che mi piace tanto, lui è famoso anche in Giappone. Ah, ok. Ma in Italia non c'è tanto, cioè un po' c'è. Come funzionano queste giornate di cosplaying? Cioè il cosplaying sarebbe che tu ti vesti come un personaggio dei cartoon, no? O anche dei film, no? C'è gente che si veste come Batman sì, più o sì, meno sì. È un cosplay. Giusto. Ok. E poi cosa succede? Gioco. Ah, giusto. E poi cosa succede? Al prima facciamo sempre di fotografia, facciamo foto, immagini, e poi facciamo un po' di After Effects su foto. Ah, ok. Quindi, e poi fino adesso facciamo un po' di più, le cose di nuove, tipo facciamo una stage, performance. Sì. Performance su stage. Ok. Ah, sullo stage, cioè sul palco. Io l'ho fatto anche nel passato. Anche qui in Italia l'hai fatto? Italiano. No. Italiano, qua io non so come funziona. Ho chiesto su Facebook anche, tipo, come se io volevo cantare oppure ballare. Se io volessi cantare. Come faccio? Però non c'è nessuno che lo sa. Ok, hai bisogno di un agente. Esatto. Ok. Non capisco come funziona qua. Cioè, hai bisogno di un agente, per cui se ci sono degli agenti che ci stanno ascoltando, sappiate che Haru Suzuki ha bisogno di voi. In realtà sei una presenza interessante. Potrebbe funzionare bene nella televisione italiana. Una come te, con questa vocina che canta con l'ukulele. Sì, certo. Vestita come un cartone animato giapponese. Fantastico. Ma qua non so come farlo, perché di solito i paesi asiani, io... Asiatici. Asiatici. Campano i vestiti di cosplay è molto facile. Ah, molto certo. Facile, ma qua non so come fare. Non si trovano i vestiti già fatti? No, non ho trovato mai. Forse su internet, ma ci sì. Sono solo pochi. Ok. È sempre tipo... La character è sempre uguale, stessa character. Sempre gli stessi? Uh-huh. Ok. Chi sono i tuoi ascoltatori? I tuoi ascoltatori sono cinesi, stanno tutti in Cina, o ci sono anche ascoltatori che ti ascoltano in Italia, a parte me? Maggior parte dei loro sono cinesi, in Cina adesso, in Cina. Certo, alcuni in una... c'è una in Russia. In Russia. Wow. E un'altra in Canada. Fantastico. Quindi non è sempre cinese, certo. E come hanno fatto a trovarti? Non lo so, magari come noi, ti dico che io sto facendo uno streaming, poi loro vanno a sentirlo. Forse alla prima non vuole sentirmi, forse la sua amica vuole qualcosa, poi c'è poi un momento, ha visto me. Mi ha visto, poi entra. Un colpo di fortuna, insomma. Uh-huh. Ho capito, è interessante. Io non mi ricordo come... esatto, non mi ricordo come ho fatto a sapere... Ah sì, ti ho seguito su Instagram, ecco perché. Perché io seguo un po' di studenti su Instagram e dopo ho scoperto che facevi la cosplayer. Ok, ma l'ICFM quanti utenti ha, lo sai? Io non lo so, non ma lo sai. È molto popolare Ma è strana sta cosa che tante persone vogliono fare un programma radio personale. Ma ci sono tante, non solo le GFM, ci sono tante. Ah, tante radio diverse, ok. E con un sacco di utenti che vogliono fare, e che cosa raccontano in tutti questi programmi, i fatti loro? loro fanno tipo come si chiama quella, perché per me io can, cioè tipo di me io faccio cantare e loro forse fanno una talk show oppure qualcosa, non ricordo. Ci sono tanti tipi. Ma c'è anche il tasto cerca, si possono cercare le tipologie di spettacoli sull'ICFM, che tu sappia. Non capisco. Io posso cercare, se volessi cercare delle trasmissioni, che ne so, come Coxo Spaziale, che parlano di arte e di teatro, posso scrivere arte e teatro nella ricerca e trovare solo le trasmissioni che parlano di arte e teatro? Penso che c'è. Tu hai messo delle parole chiave nel tuo spettacolo? Io non l'ho provato, però penso che c'è, ma sicuramente poco. Poco? Perché l'ICFM ci sono altre radio per di parlare di arte. Ah, ok. L'ICFM no. No? Si parla di cosplaying e basta? No, neanche di musica. Soprattutto musica, no? Sì, sì, della musica. Ok, sì. E dunque che musica ci fai sentire? Prossima canzone. Dai, ci fai un'altra canzone o vogliamo sentire la canzone di qualcun altro? Qual è il tuo cantante preferito in Cina? In Cina? Sì. Jay Chou. È famoso? Famoso. Sì. Si può sentire? Jay Chou. In cinese si chiama Zhou Jielun. Ah, e perché lo chiami Jay Chou allora? Perché il suo nome è inglese. Fantastico. Sta cosa che tutti voi avete un nome inglese, un nome cinese, e tu, cioè tu hai tre nomi. Tre nomi. Sì, uno giapponese, uno di inglese, uno di cinese. Ok, e in inglese come sei? Alice. È uguale, in Alice. Italiano mi chiamano Alice. Ah, ti chiamano Alice. Ok, non ti chiamano Haru Suzuki. No, solo io ti chiamo Haru Suzuki. E anche gli altri miei colleghi in accademia. Ah, ok, perfetto. Alcuni. E dunque questa è una canzone di quello che ci hai parlato prima? Jay. Dai, canta quella. Dopo. Finisce così, improvvisamente. Brava, non ti posso applaudire perché non ho le mani libere. Ma è sempre la canzone di Studiamore. Ah, sempre sull'amore, certo. come tutte le canzoni cinesi. No, non è vero, ci sono canzoni che parlano del tè, quella che ci hai fatto sentire l'altra volta. Ma tu componi anche la tua musica, le tue canzoni, scrivi canzoni? Sì, sì, ho prenotato una. Hai prenotato una? Cosa significa? Ho preso una. Prepare. Ne hai preparata una. Ah. Preparata. Preparata. Preparato. Ok, fantastico. Questo qua. È semplice. Esatto. A, M, F, C, G. Sì, ci sono solo quattro. Quattro volte. Perché questa canzone ho scritto al prima per chitarra. Ah, okay. Quindi suona non con ukulele. Però mia chitarrista adesso in Australia che è lontano di me, quindi ho scritto un'altra, come si chiama questo? Un'altra versione, ok, apposta per l'ukulele. E cosa fa il tuo chitarrista in Australia? Come me, proprio studiare. Ah, ok, allora dai, facci sentire la tua canzone originale, questa è una prima mondiale, questa, no? È la prima volta che una tua canzone originale viene suonata in radio o l'hai fatto già su Lici FM? Ho già fatto, però solo una volta in Lici FM, perché questo qua, adesso io sono solo ukulele, quindi non è una canzone perfettamente completa. Sì. Mi va a smuovere la gita, da che dopo qua気づかなかったんだ空に星から数え言えないほど君は新しい光を見つけた一人考えていた未来のことをでも答えは見つけられない僕にとっても君はまるで茶よ僕は新しい光を見つけた言えない風を地で元気かな離れてしばらく経つけれど Sono Paolo Rassei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. E siamo tornati di nuovo a Radio Città Fujiko, sempre con Haru Suzuki, che ride perché le sembra serissima questa trasmissione. E invece non è seria per niente. In realtà adesso sta già arrivando qualcun altro. Siamo costantemente interrotti da gente che ha dei bisogni più strani, tipo... Dopo due anni riappaio e voglio fare la tesi con te, adesso vediamo chi. No, ci hanno interrotto quando avevi appena finito la tua canzone. Ah, giusto. La tua canzone di che cosa parla? È una canzone ho scritto per a me, però in futuro. Ah, per te nel futuro, bella questa idea. Le parole che io voglio dire a me. Ok, e che parole ti vuoi dire? Stai bene, che cosa farai adesso? Tipo, le cose che io adesso voglio fare. Hai già finito? Hai già fatto? Ah, ok. Bello. Tipo così, tipo una giornalista. E come mai è in giapponese, giusto? Perché io l'ho visto perché non essendo scritto in ideogrammi ce l'avevi scritto in romanico. Ma perché tu non scrivi il giapponese in ideogrammi? Io ho scritto giapponese perché a quel momento ero in Giappone. Uh-huh. E ah, okay. Anche in altri gli altri member del mio gruppo, mia band, loro sono giapponesi tutti. Ah, sono tutti giapponesi? Mm-hmm. Ma tutti giapponesi che abitavano in Cina quando avete fatto la band? No, in Giappone. Ah, in Giappone? Mm-hmm. Ah, per cui la tua band, quando eri nella band eri in Giappone, non eri in Cina? No. No, eri in Cina. Cioè, non ho capito niente, insomma. Perché in Cina... a quel momento non è possibile cantare su strada. Ah, ok. Uh-huh. Non è possibile, non ha accesso proprio. Ok. Però in Giappone cantiamo ovunque. Tipo, ok. Ma dovete dire a quella persona che controlla quella area. Mm-hmm. Quindi puoi cantare. Okay. Cantiamo sempre dentro Subway oppure strada. Mm-hmm. Ma per cui ci andavi spesso in Giappone quando eri in Cina? Mm-hmm. Sì, a cantare per strada. E ti manca questa cosa di cantare per strada? Non lo vuoi fare? Mi piace tanto, mi piace tanto. E non lo vuoi fare anche a Torino di cantare per strada? Ma in Torino sono da sola. Vabbè, non si trova una band a Torino che... Ho provato, però non riesco a trovare. No. Alcune persone vogliono suonare musica su strada in Torino. Uh-huh. Forse dovresti trovare dei musicisti cinesi a Torino. Adesso io aspetto solo Hanjin studia chitarra. Ah, sì, bene. Ho capito. Le aspetto. Uh-huh. Hanjin, hai sentito? Io hai ti sentito, ho aspetto. Hanjin ti sta aspettando. Aspetto. Tu impara a suonare la chitarra e poi... Più veloce, per favore. Gli altri loro sono... Certo, ho trovato alcuni, però loro sono shy. Come dire shy? Timidi. Timidi, esatto. È proprio... Ah no, ho detto che... No, suoniamo musica sulla strada. E poi ha detto no, ho paura. E poi le ho detto no, ho fatto prima in Cina, in Giappone. Non c'è problema. Mm-hmm. Contiamo proprio. E poi ha detto no, non voglio... mi vedere così. Ho capito. Sono timidi. Tanta gente è timida. Tu non sei timida. Se c'è qualcuno parla con me, io non sono timida. Ok. Ma se io sono da sola, un po'. Ah, quando sei da sola sei timida. Per strada nessuno ti... Se qualcuno si mette a parlare con te sei timida. Perché ho fatto qualcosa crazy. Uh-huh. Tipo ho fatto tipo parlare sì. Uh-huh. Parlare su strada ho fatto anche così da sola. Mm-hmm. Ma ballare o parlare? Ballare, dance. Ah, ok, ballare. Allora ballare c'è un are o no? No si dice ballare. Hai ballato da sola per strada. Mm-hmm. Come Hanjun ha fatto l'altro giorno su Instagram. Ok, allora aspetto il video su Instagram di te e Hanjun che fate il balletto. Com'è che si chiama questo? Aspetta, andiamolo a vedere. Dopo metto il link nel podcast di questo. Come si chiama questo balletto? Mi hai detto che è molto di moda in Cina in questo momento. Ah, però quella è un'attività. Che si chiama? Douyin. Douyin? È un'applicazione. Un'applicazione così. Ah, è quella? Esatto, su questa applicazione ci sono tante le persone parlano. E dunque come funziona questa app? Che tu... Questa app le persone fanno fare i video. Mm-hmm. Con musica. Ok. Mm-hmm. Fare tante video interessanti. E sono interessanti? Secondo me sì. Mm. Ho fatto anche io. Alcune, però non è ballare. Non hai ballato? Uh-huh. Dopo su www.coxospaziale.blogspot.com. Domani vi metto il link dell'Instagram di Haru, così vedrete i suoi video. Poi alla fine mia Facebook, mia Instagram, esatto. tutto link di me ci sono. Dopo avrai un sacco di fans bolognesi che ti, che ti cercano. Ma invece i tuoi ascoltatori, che cosa sai dei tuoi ascoltatori? Quanti sono? Mi hai detto che sono tanti, 500. Di solito 500. Sono tanti. Cioè per l'Italia 500 ascoltatori sono tanti. Ma per... in Cina poco. In Cina? Solo 500 persone. Sono pochi, 500. Ci sono persone normale. Che hanno... Normale. Uno che fa una trasmissione così, come la tua, 500 ascoltatori. Perché non so quando inizia questa situazione, come qui in Cina, streaming di radio, di video, oppure di strada altra, è molto popolare adesso. Ok, e da quanto tempo è che lo fai, la tua trasmissione? Di radio oppure... Di radio. Di radio solo pochi mesi, fino adesso 6 mesi, mezzo anno. Ok, mezzo anno. E invece lo streaming di video? Di video ho fatto... Che cosa? Sei tu? Ma questo è un allarme? È un allarme che mi dice che alle 5 comincia il tuo spettacolo. Però oggi non comincia perché, perché sei qua. Come fai a fare il tuo spettacolo? Oggi stai saltando, per fare Coxo Spaziale stai saltando il tuo spettacolo. Ho detto che oggi non lo faccio. Ah, potevi farlo in italiano, eh? Ma comunque loro chiedono sempre che cosa parlate? Certo, come faccio io quando, quando ascolto in cinese. Di che cosa parlate? Tu gli devi dire usa Google Translate. Che è quello che faccio io per capire quello, quello che vi dite, poi mi traduce tipo voglio ucciderti, quando invece dice ho voglia di una torta. È interessante anche questo. Chi sono questi tuoi ascoltatori? Che cosa hai capito di loro? No, non ci siamo conosciuti. No. Ma hai capito qualcosa di loro? Che cosa sai di loro? Perché ascoltano te e non qualcun altro? Ho chiesto al prima anche perché mi sentite, sì. E poi le risposte sono, ci sono tanti diversi, tipo mi piace la sua voce. Sì, no, perché tu hai una voce particolare. Grazie, ma la voce si può cambiare. No, è particolare anche il fatto che tu puoi cambiare la voce. Quando io cantare un albero. Ma questo tu hai studiato canto per fare questa cosa di cambiare la voce? Sì, ok. E invece altri cosa ti dicono? Ti ascolto perché sei bella. Forse, perché sì. Alcuni di loro, quando io inizio di streaming di video, mi hanno seguito. Quindi adesso io faccio di radio, quindi... Ti seguono ancora? Ma non ci siamo, vediamo niente. Sì. Non ti hanno mai visto? No. Ti hanno visto solo in video? Ok. E poi altri cosa hanno, ti hanno detto? Oppure ha detto che perché ha pensato che sono funny. Funny, divertente. Divertente. Ok. Beh sì, effettivamente io ti sento spesso ridere nella radio, però non sapendo di che cosa ridi... Non posso dire se è divertente o no. Adesso aspetto quando fra poco ci sarà la traduzione simultanea, no? Stanno già vendendo un'app, un affare da mettersi nell'orecchia per tradurre simultaneamente quello che dici. Spero che tradurre correttamente. Ah, spero anch'io. Dai, fai una canzone in inglese. Questo è una canzone di un cantante cinese, però le lyrics sono in inglese. Le lyrics sono in inglese. Ok. Allora io controllo che non diventi nero. Into your eyes, don't... just fully both us so sweet. Two dimples as the charming lovely boys. My heart beats like innocent from the heavens. Sprinkle sunshine to me. Some things are truly meant to be. Give me your phone number, just drop me a small QE. I press it day and night, ring your Sundays in my love. And if you love me, don't stop to sing. Follow this place, just sing yes, I sing. Music is what I wanna say. So many years ago, the fairy tales are old. The legends change a lot, but those true love still grow. With our heads and soul, let our love to make a whole new world. We can paint the rainbow as we go. Ago, the fairy tales are old. The legends change a lot, but those true love still grow. With our heads and soul, let our love to make a whole new world. We can paint the rainbow as we go. Love is my only word. Finito così? Va bene. Questa l'avevo già sentita. Ah, io Può darsi, perché poi ogni tanto tu sull'ICFM non canti con la chitarra, canti direttamente dalle basi, che anche quella è una cosa per noi abbastanza strana, per noi occidentali. Il karaoke è giapponese, non è occidentale. La parola è giapponese, per cui significa che siete voi giapponesi, in questo caso ti penso giapponese, che avete inventato il karaoke. E come mai tua nonna dal Giappone è venuta in Cina? Perché mia nonna è di Taiwan. Ah, ok. Non, anche io non lo so quando loro conosciamo loro. E io non ho chiesto a loro mai, perché quando io sono nata non ho incontrato mio nonno mai, perché è già via. Mm-hmm. Quindi non ho chiesto mai questa cosa. Cioè tuo nonno era a Taiwan e tua nonna invece era in Cina? No? No, in Giappone. In Giappone. Ah, giusto, è vero, perché tu sei nata in Giappone e sei cresciuta in Giappone. E come mai dopo siete venuti in Cina? Tanto per farmi gli affari tuoi. Perché il motivo è perché il lavoro dei miei genitori. Mm-hmm. E poi loro seguo. E tu quanti anni avevi tu quando dal Giappone sei andata in Cina? 3 anni io sono andata a Taiwan. Ok. E poi ho abitato quasi 4 anni. A Taiwan? No, 10 anni. E poi mi sono trasferita? Trasferita, grazie. Sì. E poi mi sono trasferita alla Cina. Ok, dove? In una città si chiama Jiangxi. Jiangxi? Non lo sai. No, non la conosco. vabbè, non è che posso conoscerle tutte. Anche io non conosco tutte, è troppo grande. È troppo grande la Cina. Mm-hmm. E come ti sei trovata? C'è tanta differenza tra Taiwan e la Cina, vivere in Taiwan e vivere in Cina. Esatto, ci sono tante differenze. Sì, ok. E ci sono anche tante differenze tra la Cina e Torino. Certo. Che dici? Che cosa ti piace di Torino? Mi piace di Torino l'area, environment. L'ambiente. Ah, l'ambiente. Environment, ambiente. Ah. E, nel senso di vita. Building. Ah, i building, i palazzi ti piacciono, perché sono antichi. Esatto. Mm-hmm. E poi? I ragazzi torinesi sono belli? Ti piacciono? No. Insomma. Perché non c'è tanta... Adesso ne approfitto magari per parlare del rapporto tra Oriente e Occidente. Non c'è tanta interazione tra voi, tra i cinesi e gli italiani, no? Cioè, un po' sì, ma non tantissimo. Non vedo tante coppie miste in giro. No. Una coppia con maschio cinese, femmina italiana o viceversa. Ho visto per poco, pochissimo. Perché è così, secondo te? Perché la cultura è molto lontana? Secondo me no, è il problema della cultura. No? Secondo me è della lingua. Tipo adesso. Tipo adesso, della lingua. Beh, ma tu comunque l'hai imparato bene l'italiano. No, così penso. Così, beh, abbastanza da poter avere una conversazione da mandare in radio. Forse perché dopo alcuni anni di più posso imparare di più. Di più? Ok. Fino adesso io ho abitato a Torino solo 2 anni. Ma prima sei stata a imparare l'italiano nelle Marche come tutti i cinesi? No. Io vengo qua, a Torino e poi ho fatto il, come dire, colloquio. Mm-hmm. Colloquio direttamente. Quindi non ho fatto lezione di italiano. Prima non capisco niente. Il primo anno non capivi niente. Beh, hai imparato molto. Considera che un sacco di tuoi colleghi cinesi sono qua da 5 anni e continuano a non capire niente. E io gli dico, ma tu sei biennio o triennio? E lui, sì, ma biennio o triennio? Sì, biennio, sì, triennio, sì, ok. Forse è il suo primo anno. Esatto. Sì, come se fossero il primo anno, ma sono qua da 5 anni. Ah. Per cui comunque tu interagisci con gli italiani, perché non sei timida. Diventa che persona mi sta parlando. Ho capito. Dipende, per cui io posso sentirmi un privilegiato che tu parli con me. Esatto. Sì. Ah, ok, mi sembra giusto. Se una persona simpatica, forse divento, vuol dire... Simpatica anche tu, diventi più simpatica, mentre invece se la persona è antipatica sei una stronza che non ti si guarda, giusto? Esatto. Ah, ok. No, me lo posso immaginare che tu, che tu possa essere molto così, va bene, è giusto così. No, quello che volevo dire io è, possiamo sentire una canzone che ti piace direttamente da internet? Qualcosa che... Di internet? Sì. Making my way downtown, working fast, places pass and I'm homebound. I don't wanna let you know I still need you, and I still miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd work a thousand lies if I could just see you. Could just hold you. L'angolo della menzione. Bene, siamo qui con Federico Cibin. Ciao Federico. Tutti, buonasera. Cosa mi racconti? Perché ti ho telefonato io? Bah, è una storia grande e lunga. Si tratta di un nuovo festival di circo contemporaneo e arti performative che nasce a Bozzano dell'Emilia dal 4 di maggio fino al 13 di maggio, quindi sono due settimane, nello specifico sono due fine settimana di programmazione, il venerdì, sabato e domenica, e il venerdì, sabato e domenica del secondo fine. Ed è un autentico festival di circo, non è solo un circo itinerante come se ne vedono tanti. Esattamente, esattamente. Allora, immaginate un prato, un ex campo da calcio di fronte proprio al municipio di Ozzano, in una isola pedonale alberata, con zone d'ombra. Ecco, c'è questo ex campo da calcio nel quale monteremo il tendone da circo della compagnia Circo Il Grito, che è una delle cinque compagnie di circo contemporaneo italiane più importanti. Se qualcuno degli ascoltatori è stato a vedere per esempio Bologna, città di circo, ecco, Circo Il Grito non è mai stato a Bologna nelle varie edizioni di Villa Angeletti, della Montagnola, quindi assolutamente da non perdere. Ma non c'è solo questo, ci sono molti altri artisti, spettacoli di danza e manipolazione col fuoco, laboratori di circo ludico aperti a tutti, per tutte le fasce d'età. Sul prato ci saranno delle installazioni musicali con elementi di riciclo ed elementi naturali, quali l'acqua, la terra, il fuoco, con i quali tutti possono interagire e giocare. E poi ovviamente ci sono anche gli stand gastronomici, con una particolare attenzione per i prodotti biologici, a questo ci tenevamo. Quindi tutto quello che il pubblico potrà mangiare e bere è biologico e possibilmente a chilometri zero. Intendiamo sostenere questa politica, ecco, per quanto riguarda il cibo e l'offerta gastronomica, e anche con i giovani artisti che poi formano la programmazione musicale del festival, perché oltre a questo ci sono anche dei concerti gratuiti sempre sul prato. Si alternano diverse, sono veramente tante le band musicali giovani del territorio che noi vogliamo valorizzare, sostenere, vogliamo far conoscere. Sono molto bravi, sono emergenti e ci interessa sostenere questo tipo di energie qui, ecco. Fantastico, poi ricordiamo che è in onda, diciamo, nel weekend, venerdì, sabato e domenica 4, 5, 6 maggio e poi 11, 12 e 13, giusto? Esatto, con una programmazione diversa tra i due fine settimana. Il primo fine settimana la compagnia, diciamo, principale, se vogliamo, che è appunto quella del Circo Il Grito, propone lo spettacolo 20 decibel nelle tre giornate, quindi avete la possibilità di vederlo venerdì 4, sabato 5 e domenica 6. Ma insieme allo spettacolo della compagnia Circo Il Grito 20 decibel ci sono tanti altri spettacoli per ognuno dei giorni che vi ho detto, che vi invito a vedere, insomma. Da sapere che domenica la programmazione di spettacolo parte dalle 11 del mattino con uno spettacolo che si chiama Rufino Clown Show. Lui è un artigiano del buon umore, è un clown veramente molto bravo, che ci regala anche delle incursioni artistiche durante il venerdì e sabato per il Prato. Veste due panni, diciamo, questo artista all'interno del festival. Uno che è quello dello spettacolo di cui vi ho appena parlato, Rufino Clown Show, che si terrà sotto il tendone, mentre itinerante lui porta un personaggio che si chiama Fausto Barile, con il suo spettacolino che si chiama Gran Teatro Dentro. Questo Fausto Barile ha una pancia gigantesca che si apre, dentro la quale c'è un vero e proprio teatro con il sipario, le quinte, e nel teatrino succedono delle cose che non vi posso svelare, ma ci sono un sacco di effetti speciali. È veramente molto carino, è una perla rara, ecco, questo artista. Mentre il secondo fine settimana sempre la compagnia Circo Il Grito ci propone Johann Sebastian Circus, che è stato definito come uno spettacolo pieno di fantasia, libertà e bellezza da alcuni giornalisti che lo hanno recensito, quindi vi invito assolutamente a venirlo a vedere. E ci saranno ben 5 repliche, 2 il venerdì, 2 il sabato e 1 la mattina di domenica 13 maggio. Quindi da non perdere sia la prima che la seconda settimana. Ecco, abbiamo ottenuto dei prezzi per gli spettacoli a pagamento che crediamo siano abbastanza popolari, insomma 12 euro per gli adulti e 6 euro i ridotti under 14, mentre molti altri spettacoli sono gratuiti, quelli che non sono sotto il tendone sono tutti gratuiti. Ecco. Fantastico. E questo naturalmente è davanti al municipio di Ozzano dell'Emilia in via della Repubblica, e a partire da quello che per i nostri ascoltatori è stasera, perché esatto, venerdì 4, sì, praticamente stasera, perché sì, perché la nostra intervista coxica prevede che parliamo di oggi. Fantastico, io ti faccio i miei migliori auguri e volevo giusto menzionare chi sono, cioè chi siete voi organizzatori di tutto quanto. Ah sì, dunque l'associazione che organizza è un'associazione che è sul territorio, che ha lo stesso nome del festival, si chiama Arti in Circo, ma la direzione artistica del festival è affidata alla compagnia Nando e Maila, che forse qualcuno di voi su questo programma, insomma, se ne è parlato in passato. Siamo gli stessi che curiamo la direzione artistica della rassegna del Camara Circus in Dul Camara, e poi vabbè, siamo una compagnia di giro, sempre di circo contemporaneo, più spostata sulla musica forse noi, sulla conoscenza musicale, però insomma sono stati ospiti storici del corso spaziale, ecco. Fantastico, io ti ringrazio moltissimo e ci vediamo sotto al tendone. Ma grazie a voi, sì, ci vediamo al festival, ci vediamo al Circo Festival, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao, un saluto a tutti, ciao ciao. 向上海问好. Ecco, che significa un saluto da Shanghai. Esatto. Questo era Coxo Spaziale ed era una puntata speciale perché io sono a Shanghai, Fedra continua a non esserci e Haru invece è qua con noi. Poverina da sola. Oh, che peccato. Vabbè, studia. A studiare. Brava, studia pure. Studia e canta. Ti ringrazio e ci vediamo. Questo era Coxo Spaziale, ci sentiamo la settimana prossima. Sempre al venerdì, sempre alle 8, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao ciao! Ciao ciao!